Ad alta voce, Nila Prisco legge Peter Pan nei giardini di Kensington di James Matthew Barrie. Traduzione di Carla Vannucini. Quarta puntata. L'ora di chiusura. È terribilmente difficile sapere cose sulle fate e l'unica davvero certa è che dovunque ci siano dei bambini ci sono anche loro. Molto tempo fa i giardini erano vietati ai bambini e all'epoca non c'era una sola fata in quel posto. Poi i bambini furono fatti entrare e quella sera stessa le fate giunsero a frotte. Non possono fare a meno di seguirli, ma è cosa rara riuscire a intravederne una. Vuoi perché durante il giorno vivono dietro i recinti, dove a voi non è permesso andare, vuoi perché sono piuttosto furbe. Dopo la chiusura non sono furbe nemmeno un po', ma fino ad allora caspita se lo sono. Quando eravate uccelli conoscevate le fate piuttosto bene e finché siete piccoli ricordate tante cose su di loro. Ed è un vero peccato che non possiate scriverle, perché a poco ve ne scordate. Tanto che ho sentito dire che certi bambini sostengono di non aver mai visto una fata, neanche una volta. Se dicono una cosa del genere nei giardini di Kensington, è probabile che proprio mentre lo dicono ne stiano guardando una. E la ragione dell'inganno è che lei fa finta di essere qualcos'altro. È uno dei loro trucchi più riusciti. Di solito si fingono fiori, dato che la corte si riunisce nella conca delle fate. E sia lì che lungo il piccolo sentiero ce ne sono così tanti che un fiore è certo la cosa che passa più inosservata. Si vestono esattamente come i fiori e cambiano a seconda delle stagioni, indossando il bianco quando spuntano i gigli, il blu con le campanule e via dicendo. Più di ogni altro amano il tempo dei crochi e dei giacinti, dato che hanno un debole per un tocco di colore. Quanto ai tulipani, fatta eccezione per quelli bianchi che sono le culle delle fate, li considerano un po' vistosi e a volte capita che rimandino di qualche giorno la loro tenuta da tulipani. E proprio per questo le prime settimane di fioritura dei tulipani sono il momento più adatto per coglierle di sorpresa. Quando pensano di non essere viste sfuggono via leggere, ma se state a guardarle e temono di non fare in tempo a nascondersi, restano immobili, fingendo di essere fiori. Poi, una volta che siete passati senza riconoscerle, si precipitano a casa per raccontare alla mamma quella grande avventura. Ricorderete che la conca delle fate è interamente ricoperta di edera, da cui estraggono le loro essenze, e qua e là ci crescono dei fiori. Per lo più si tratta di fiori veri, ma alcuni sono fate. Non si può mai esserne certi, ma un valido stratagemma può essere camminare guardando da un'altra parte e poi voltarsi di scatto. Un altro stratagemma efficace che a volte David e io mettiamo in pratica è fermarsi a fissarle. Dopo un po' non possono fare a meno di battere le palpebre e così sarete certi che si tratta di fate. Ce ne sono molte anche lungo il piccolo sentiero, che a detta di tutti è un luogo molto chic, come si dice dei posti frequentati dalle fate. Una volta 24 di loro ebbero un'avventura straordinaria. Era una scolaresca di bambine, tutte travestite da Giacinto, a passeggio con l'istitutrice. Ad un tratto questa si portò un dito alle labbra e tutte rimasero immobili sopra una aiuola vuota, fingendosi Giacinti. Sciaguratamente quello che aveva sentito l'istitutrice era il sopraggiungere di due giardinieri che venivano a piantare dei fiori proprio in quell'aiuola. Spingevano una carriola con dentro le piantine nuove e rimasero alquanto sorpresi di trovare l'aiuola già occupata. «Peccato tirar via questi giacinti», disse uno. «Ordini del duca», rispose l'altro. E svuotata la carriola dissotterrarono la scolaresca e disposero le povere creature spaurite su cinque file. Naturalmente né l'istitutrice né le bambine osarono rivelare la loro natura di fate e così vennero trasportate lontano fino a un capannone da dove fuggirono scalze durante la notte. Ma in seguito all'accaduto scoppiò un tafferuglio tra i genitori e la scuola ne fu seriamente danneggiata. Per quanto riguarda invece le loro case, è inutile cercarle, perché sono l'esatto contrario delle nostre, che si vedono di giorno ma non al buio. Ecco, le loro case si vedono nel buio ma non di giorno, perché sono del colore della notte e nessuno di giorno può vedere la notte. Questo non vuol dire che sono nere, perché la notte ha i suoi colori come ce li ha il giorno. Anzi, assai più brillanti. Gli azzurri, i rossi e i verdi sono come i nostri, ma con una luminosità speciale. Il palazzo è costruito tutto con vetri dai mille colori ed è la più incantevole tra le residenze reali, anche se la regina certe volte si lamenta perché i suoi sudditi hanno il brutto vizio di sbirciare quello che fa. Sono delle vere impiccione le fate. Stanno con la faccia incollata ai vetri e pare che sia per questo che di solito hanno il naso corto e schiacciato. Le strade sono molto lunghe e tortuose e da ogni lato si diramano sentieri fatti di cardato lucente. Gli uccelli avevano il brutto vizio di rubare i fili del tessuto per costruirci il nido, ma è stata nominata appositamente una guardia che li tenga fermi a un'estremità. Una grande differenza tra noi e le fate è che loro non fanno mai niente di utile. Quando il primo bambino rise per la prima volta, la sua risata si ruppe in mille pezzi e tutti quei frantumi si dispersero in ogni dove. Fu così che nacquero le fate. Hanno sempre un'aria terribilmente indaffarata, come se non avessero un attimo di tempo. Ma se mai decideste di chiedergli cosa stanno facendo, non avrebbero la minima idea di cosa rispondervi. Sono di un'ignoranza abissale e tutto quello che fanno è pura finzione. Hanno un postino, ma non passa mai da nessuno tranne che a Natale con la sua cassettina. Hanno delle gran belle scuole dove non viene insegnato niente. La più piccina, considerata la fata più importante, viene scelta come maestra e allora lei fa l'appello e poi se ne vanno tutte fuori a passeggiare e non tornano più. È da notare che nelle famiglie di fate è il più giovane che conta di più, quello che di solito diventerà principe o principessa. Questo i bambini se lo ricordano bene e pensano che funzioni così anche tra gli esseri umani. Ecco perché si sentono inquieti quando scoprono che la mamma di nascosto rinnova i merletti della culla. Avrete forse notato che la vostra sorellina vuole fare tutte quelle cose che la mamma e la bambinaia non vogliono che faccia. Per esempio alzarsi quando è il momento di star seduti e sedersi quando è tempo di stare in piedi. Oppure svegliarsi quando dovrebbe dormire o gattonare sul pavimento col vestitino più bello addosso e così via. E magari voi pensate che si tratti di capricci. Ma non è così. Sta solo facendo quello che ha visto fare alle fate. E all'inizio imita i loro comportamenti. E ci vogliono almeno 2 anni perché possa avere accesso a quelli degli esseri umani. Quelle improvvise crisi di collera, terribili da vedere e attribuite in genere alla dentizione, non c'entrano proprio niente con i denti. La piccina è giustamente esasperata perché, pur parlando una lingua comprensibile, non riesce a farsi capire. Parla infatti il fatesco. Le mamme e le bambinaie sanno cosa vogliono dire certe sue strane espressioni, prima di chiunque altro. Dutto significa dammelo subito, mentre pello vuol dire perché hai un cappello così buffo. Il fatto è che loro, a forza di stare sempre con i bambini, hanno imparato qualcosa della lingua delle fate. Di recente David si è messo a ripensare intensamente al fatesco, appoggiando i pugni sulle tempie, e si è ricordato un bel po' di frasi che un giorno o l'altro vi dirò se non me ne dimentico. Le aveva sentite dire quando era ancora un tordo, e io gli ho suggerito che forse è la lingua degli uccelli quella che ricorda. Ma lui si ostina a dire di no, perché sono frasi che riguardano il gioco e l'avventura, mentre gli uccelli non parlano d'altro che di nidi da costruire. Ricorda chiaramente che gli uccelli passavano da un posto all'altro come fanno le signore davanti alle vetrine dei negozi, scrutando i vari modelli di nidi e dicendo «Non è del colore giusto, mia cara», e «Non sarebbe meglio con una fodera morbida?» e «Ma durerà?» e «Che orrore di rifinitura!» e via dicendo. Le fate sono eccellenti ballerine e per questo uno dei primi gesti del bambino è farvi segno di ballare per lui, anche se poi appena lo fate si mette a piangere. Tengono i loro grandi balli all'aperto, all'interno di quello che viene chiamato il cerchio delle fate. Potete scorgerlo sull'erba per settimane a seguire. Prima del ballo non c'è traccia del cerchio. Si forma a furia di ballare il valzer in tondo. Certe volte si trovano anche dei funghi dentro al cerchio. Sono le sedie delle fate che la servitù ha dimenticato di portare via. Le sedie e i cerchi sono gli unici indizi rivelatori che questi esseri minuscoli si lasciano alle spalle. E toglierebbero anche quelli se non fossero tanto presi dal ballo che continuano a sgambettare fin proprio al momento dell'apertura dei cancelli. Una volta David e io scovammo un cerchio delle fate ancora caldo. Ma c'è anche un modo per venire a sapere del ballo prima che abbia luogo. Vi ricorderete i cartelli che espongono l'orario di chiusura dei giardini giorno per giorno? Bene, certe volte quelle furbacchione cambiano il cartello di nascosto la sera stessa del ballo. Così per esempio si leggerà che i giardini chiudono alle 6:30 invece che alle 7. Questo consente loro di dare inizio alle danze con una buona mezz'ora di anticipo. Se in notti del genere potessimo restarci nei giardini come fece la celebre Mamie Mannering, potremmo deliziarci con scene incantevoli. Centinaia di graziose fatine accorrono al ballo, quelle sposate portano le fedi nuziali intorno alla vita, i signori in alta uniforme reggono lo strascico alle signore e i valletti fanno strada tenendo alti gli alchekenji, che sono le lanterne delle fate. C'è un guardaroba dove si indossano le scarpette d'argento e si ritira lo scontrino per i mantelli. I fiori si riversano dal piccolo sentiero per godersi lo spettacolo e sono ospiti graditi perché hanno sempre qualche spilla da imprestare. La tavola è imbandita per la cena, la regina Mab è seduta a capo tavola e dietro di lei c'è il gran ciambellano con un dente di leone su cui soffia quando sua maestà vuole sapere che ore sono. La tovaglia varia a seconda delle stagioni. In maggio, per esempio, è fatta con i fiori di castagno. I servitori delle fate procedono nel modo seguente. Dozzine di domestici si arrampicano sugli alberi, scuotono i rami e i fiori vengono giù come fiocchi di neve. Allora le domestiche li raccolgono insieme scuotendo le gonne e li ammassano fin quando l'aspetto è proprio quello di una tovaglia di stoffa. E voilà, la tovaglia è pronta. Ci sono veri bicchieri e vero vino di tre tipi, e precisamente di prugnolo, di crespino e di primule odorose. E la regina lo versa, ma le bottiglie sono talmente pesanti che in realtà fa solo finta di versarlo. Per cominciare viene servito pane e burro a pezzetti grandi come un soldino, e per finire dei dolcetti talmente piccoli che non fanno nemmeno le briciole. Le fate sono sedute su dei funghi tutte attorno alla tavola, e all'inizio si comportano educatamente. Quando tossiscono si mettono la mano davanti alla bocca e così via. Ma dopo un po' non sono più così educate e infilano le dita nel burro, che è fatto con radici di vecchi alberi. E quelle proprio screanzate camminano carponi sulla tovaglia a caccia di zucchero e altre prelibatezze da leccare con la lingua. Quando la regina si accorge della situazione, fa cenno alla servitù di sparecchiare e rimettere a posto. E allora tutti passano alle danze. La regina avanza per prima, seguita dal gran ciambellano che porta due piccoli bricchi, uno con succo di violacciocche gialle e l'altro con succo di dittamo. Il succo di violacciocca serve per ridare vigore ai ballerini che cadono a terra stremati, quello di dittamo per lenire le contusioni, che sono frequenti. Quando Peter suona sempre più veloce, le fate ballano fino allo sfinimento. Perché, come saprete senza bisogno che ve lo dica, è Peter Pan l'orchestra delle fate. Sta seduto in mezzo al cerchio e ormai nessuno si sognerebbe più un ballo di gala senza di lui. A margine dei biglietti di invito, inviati a tutte le famiglie più in vista, ci sono le iniziali PP. Le fate sono anche creature riconoscenti, così al ballo di debutto della principessa, diventano debuttanti al loro secondo compleanno e compiono gli anni ogni mese, concessero a Peter di esprimere un desiderio. Andò in questo modo. La regina gli ordinò di mettersi in ginocchio, poi gli disse che per aver suonato tanto bene avrebbe esaudito il desiderio più caro che custodiva nel suo cuore. Allora tutte le fate si riunirono intorno a Peter per conoscere il suo desiderio, ma egli esitò a lungo, non sapendo bene nemmeno lui quale fosse. «Se decidessi di tornare dalla mamma», domandò infine, «potreste forse esaudire questo mio desiderio?» Sul momento la domanda le indispettì, perché se Peter fosse tornato dalla sua mamma avrebbero dovuto rinunciare alla musica. Così la regina storse il naso con aria sprezzante e rispose «Non hai un desiderio più grande di questo?» «Perché? È piccolo questo desiderio?» chiese lui. «Piccolo così», rispose la regina mettendo le mani una accanto all'altra. «Ma allora com'è un desiderio grande?» domandò. Lei indicò la misura direttamente sulla gonna ed era proprio una bella lunghezza. Allora Peter ci pensò un po' e disse: «Ebbene, credo che esprimerò due desideri piccoli al posto di uno grande». Naturalmente le fate dovettero accettare, anche se quella sua astuzia le impressionò seriamente. Peter disse che il suo primo desiderio era quello di andare dalla mamma, con la facoltà di tornarsene ai giardini nel caso lei lo avesse deluso. Quanto al secondo desiderio, preferiva tenerlo di riserva. Le fate tentarono di dissuaderlo, cercando anche di mettergli i bastoni tra le ruote. «Posso darti la facoltà di volare fino a casa», disse la regina, «ma non posso aprire la porta per farti entrare». «La finestra da cui sono fuggito sarà spalancata», disse Peter fiducioso. «Mamma la tiene sempre aperta nella speranza di vedermi tornare». «E come lo sai?» chiesero loro piuttosto sorprese. E in verità Peter non poté spiegare come faceva a saperlo. «Lo so e basta», disse. E così, dato che insisteva con quel desiderio, dovettero accontentarlo. Per dargli il potere di volare, procedettero così. Si misero a fargli il solletico sulle spalle e Peter ben presto cominciò a sentire uno strano formicolio in quel punto. Allora si levò sempre più in alto e volò via dai giardini, sopra i tetti delle case. Era un'esperienza talmente piacevole che invece di filare dritto a casa sorvolò la cattedrale di St. Paul fino alla Crystal Palace, per poi tornare indietro lungo il fiume e Regent's Park, e quando raggiunse la finestra della mamma aveva già deciso che il suo secondo desiderio sarebbe stato diventare un uccello. La finestra era spalancata, proprio come aveva immaginato. Così entrò dentro svolazzando mentre la mamma dormiva. Peter si posò delicatamente sulla sponda di legno ai piedi del letto e la guardò attentamente. Era sdraiata con una mano sotto la testa e l'incavo sul cuscino gli sembrava un nido rivestito dai bei capelli castani ondulati. Lo aveva dimenticato per tanto tempo, ma ora gli tornò in mente che la notte li lasciava sempre liberi e sciolti i capelli. Come erano graziose le trine della sua camicia da notte. Era davvero felice di avere una mamma tanto bella. Però lei aveva l'aria triste e lui sapeva il perché. Mosse un braccio come per stringere qualcosa e lui sapeva cosa avrebbe voluto stringere. «Oh, mammina», disse Peter tra sé. «Se solo sapessi chi c'è seduto sulla sponda ai piedi del letto». Sfiorò con grande tenerezza il rialzo dove stavano i piedi e comprese dall'espressione del suo volto che le faceva piacere. Sapeva che non avrebbe dovuto far altro che dire «mamma» con altrettanta delicatezza e lei si sarebbe svegliata. Le mamme si svegliano sempre all'istante se siete voi che le chiamate per nome. A quel punto avrebbe lanciato un alto grido di gioia e lo avrebbe stretto tra le braccia. Come sarebbe stato bello per lui, ma che gioia esaltante sarebbe stata per lei. È così, temo, che Peter vedeva la cosa. Nel tornare dalla mamma non aveva mai dubitato che le stava dando la gioia più grande che si possa offrire a una donna. «Non c'è niente di più stupendo», pensò, «che avere un bambino tutto per sé. Come sono orgogliose di lui! E ne hanno tutte le ragioni, e come! Ma perché Peter resta così a lungo sulla sponda? Perché non dice alla mamma che è tornato?» Quasi rifuggo dal dire la verità, e cioè che se ne stava lì, combattuto su cosa fare. A volte rivolgeva uno sguardo accorato alla sua mamma, a volte lo sguardo cadeva impaziente sulla finestra. Sarebbe stato sicuramente bello essere di nuovo il suo bambino, ma d'altro canto che giornate aveva trascorso ai giardini. Era proprio sicuro che gli sarebbe piaciuto ancora indossare dei vestiti. Saltò giù dal letto e aprì qualche cassetto per dare un'occhiata ai vecchi indumenti. Erano ancora lì, al loro posto, ma non riusciva a ricordarsi come si mettono. I calzini, ad esempio, si portano ai piedi o alle mani? Era sul punto di provarne uno sulla mano quando ebbe un'avventura straordinaria. Forse il cassetto aveva scricchiolato. Ad ogni modo la mamma si svegliò perché la sentì che diceva «Peter», come se fosse la parola più bella del mondo. Rimase seduto sul pavimento, trattenendo il respiro e chiedendosi come avesse fatto a sapere che era tornato. Se avesse chiamato Peter un'altra volta, le avrebbe gridato «Mamma!» e sarebbe corso tra le sue braccia. Ma lei non parlò più, emise soltanto dei flebili lamenti e quando tornò a guardarla si era di nuovo addormentata, con il viso solcato dalle lacrime. Peter ne fu molto rattristato. E quale fu, secondo voi, la prima cosa che fece? Seduto sulla sponda ai piedi del letto, intonò col suo piffero una deliziosa ninna nanna per la sua mamma. L'aveva composta lì per lì, ispirato dal modo in cui lei aveva detto Peter, e non smise di suonarla fino a quando non le tornò sul volto un'espressione felice. «Sono stato bravo», pensò, e per poco non la svegliò per sentirsi dire «Oh, Peter, come suoni magnificamente!». Comunque, ora che sembrava tranquilla, riprese a gettare lo sguardo in direzione della finestra. Non dovete pensare che meditasse di volarsene via per non far più ritorno. Era assolutamente deciso a essere il bambino della sua mamma, ma non era sicuro di voler cominciare proprio quella notte. Era il secondo desiderio che lo preoccupava. Non voleva più diventare un uccello, ma gli sembrava un vero spreco non esprimere un secondo desiderio, e per farlo doveva ovviamente ritornare dalle fate. Inoltre, se avesse rimandato il desiderio troppo a lungo, forse si sarebbe guastato. Si chiese se non era stato un po' crudele a volar via senza dire addio a Salomone. «Mi piacerebbe da morire fare un giro con la mia barca ancora una volta», disse rivolto alla mamma che dormiva, con lo sguardo carico di nostalgia. Si mise come a discuterci, quasi lei avesse potuto sentirlo. «Pensa come sarebbe bello raccontare questa avventura agli uccelli», disse in tono suadente. «Ti prometto che tornerò», aggiunse con una certa solennità, e ne aveva di certo tutte le intenzioni. E alla fine, come sapete, volò via. Per due volte tornò indietro dalla finestra, perché voleva dare un bacio alla mamma, ma temeva che per la gran gioia si sarebbe svegliata, così le suonò uno splendido bacio col piffero, dopodiché se ne tornò in volo ai giardini. Trascorsero molte notti e perfino mesi prima che esprimesse il suo secondo desiderio alle fate, e non sono sicuro di sapere perché avesse rimandato per tanto tempo. Una delle ragioni fu che aveva parecchi arrivederci da dire, non solo ai suoi amici più cari, ma anche a centinaia di luoghi che amava. Poi fece il suo ultimo giro in barca, poi l'ultimissimo, e l'ultimo ancora, e così via. Inoltre furono date una gran quantità di feste di addio in suo onore, e un altro pensiero rassicurante era che dopo tutto non c'era alcuna fretta, perché la sua mamma non si sarebbe mai stancata di aspettarlo. Quest'ultima ragione dispiacque non poco al vecchio Salomone, perché rappresentava per gli uccelli un esplicito incoraggiamento a rimandare le cose. Salomone disponeva di massime eccellenti per tenerli sempre occupati, per esempio non rimandare a domani l'uovo che puoi fare oggi. E a questo mondo non c'è mai una seconda occasione. Eppure Peter continuava a rimandare serenamente, senza subirne conseguenze di alcun tipo. Così gli uccelli presero a far notare la cosa e finirono per cadere nella sua stessa indolenza. Badate bene però, per quanto Peter si mostrasse tanto pigro nel tornare dalla mamma, era comunque assolutamente deciso a farlo. Era chiaro dal suo atteggiamento prudente nei confronti delle fate. Queste desideravano talmente tanto che lui rimanesse ai giardini a suonare per loro che per farlo restare gli tendevano dei tranelli, inducendolo a pronunciare commenti del tipo «Come vorrei che l'erba non fosse così bagnata!» oppure «Qualcuna ballava fuori tempo», sperando che lui gridasse «Vorrei almeno teneste il tempo!» e loro avrebbero detto che quello era il suo secondo desiderio. Ma Peter aveva fiutato l'imbroglio e sebbene in certe occasioni avesse cominciato con un «Come vorrei!» era riuscito sempre a fermarsi in tempo. E così, quando finalmente con orgoglio disse «Ora vorrei tanto ritornare dalla mia mamma per sempre», non poterono far altro che solleticargli le spalle e lasciarlo andare al suo destino. Alla fine se ne andò in gran fretta, perché aveva sognato che la mamma piangeva. E lui sapeva bene qual era la ragione di quel pianto e che un abbraccio dal suo splendido Peter le avrebbe riportato il sorriso. Ah, se n'era sicuro, ed era anche così impaziente di essere stretto e coccolato tra le sue braccia, che questa volta volò senza indugio verso la finestra che doveva essere sempre aperta per lui. ma la finestra era chiusa e c'erano delle sbarre di ferro, e sbirciando all'interno vide la mamma che dormiva tranquilla con un braccio intorno a un altro bambino. Peter chiamò a gran voce: «Mamma! Mamma!» Ma lei non lo sentì. Invano batté le manine contro le sbarre di ferro. Dovette tornarsene singhiozzando ai giardini e non vide mai più la sua amata mamma. Che bambino stupendo sarebbe stato per lei. Peter, tutti noi che abbiamo commesso il grande errore, come ci comporteremmo diversamente una seconda volta? Ma Salomone aveva ragione, non esiste una seconda occasione, non per la maggior parte di noi. Quando raggiungiamo la finestra è ormai l'ora di chiusura. Le sbarre di ferro sono lì per la vita.